380. Fagiolini in salsa d'uovo. Prendete grammi 300 circa di fagiolini in erba, togliete loro le due punte e il filo e poi, come dicono i cuochi in gergo francioso, imbianchiteli, cioè date loro mezza cottura in acqua alquanto salata. Levateli asciutti, tagliateli in tre pezzi e tirateli a sapore col burro, sale e pepe. Frullate in un pentolo un rosso d'uovo con un cucchiaino di farina e il sugo di un quarto di limone. Allungate il miscuglio con un ramaiuolo di brodo, ghiaccio, di grassato e ponete questo liquido al fuoco in una cazzarolina girando sempre il mestolo e quando per la cottura sarà divenuto come una crema scorrevole, versatelo sui fagiolini. Tenete questi ancora un poco sul fuoco perché la salsa si insapori e serviteli per contorno all'esso. Per far prendere ai fagiolini e agli zucchini un bel verde, gettate nell'acqua quando bolle oltre il sale un cucchiaino di soda.